gira, non lo puoi fermare. È dall'altra sera che non vuoi capire. Non hai vinto niente, un abbraccio soltanto. Dalla folla un tizio, ma non sai chi fosse. Che il fiume scorra, se porti via tutto, ti tengo forte nei giorni più brutti. E adesso, oh, non mi guardi con quegli occhi, anche se la luna oscura la tua dolcezza. E anche adesso, dov'è la mia camicia? Tu non ti preoccupi del tempo, solo che il tempo non ti aspetta. Prima d'esser diva, hai sempre vent'anni, tu e la tua stima. Siamo mica a Miami, quanto abbiamo lottato, quanto ancora sogniamo prima che sia veri. E che il fiume scorra e si porti via tutto, forte nei giorni più brutti. E adesso, oh, non mi guardi con quegli occhi, anche se la luna oscura la tua dolcezza. E che stress, ma dov'è la mia camicia? Tu non ti preoccupi del tempo, non aspetta. Adesso tutto torna, sei il mio bijou. Pensavo di morire, ma sei arrivata tu. Non è amore se soffri solamente tu. E adesso, quando mi guardi con quegli occhi, e la luna si nasconde dalla vergogna. E che stress, ti prego no le fusa. Tu col volto d'innocente e poi io chiedo scusa. E adesso, e adesso.